taglio l'aria con un coltello. Da forbice falso duello. Mai più un taglio senza ragione. Mai più ferite in questa stagione. Mai più, mai più. La forbice negativa taglia il dolore, portando via la vita. Balla con me sotto la luna cattiva, ma la speranza resta sempre viva. Un taglio netto, un segno profondo. Il tempo guarisce il cuore del mondo. Non tornerò a quei giorni passati. Mai più quei gesti tanto sbagliati. Mai più, mai più. La forbice negativa taglia il dolore, portandomi alla vita. Balla con me sotto la luna cattiva, ma la speranza resta sempre viva. Profondo. Il tempo guarisce il cuore del mondo. Non tornerò a quei giorni passati. Mai più quei gesti tanto sbagliati. Mai più, mai più. La forbice negativa taglia il dolore, portando via la vita. Balla con me sotto la luna cattiva, ma la speranza resta sempre viva. Mai più, mai più. La forbice negativa taglia il dolore, portando via la vita. Balla con me sotto la luna cattiva, ma la speranza resta sempre viva. Viva!